Eccoci qui. Buonasera. Ciao a tutti. Siamo sempre i soliti DJ, non sono ancora riusciti a sostituirci, Prog 1 e Prog 12, 13, dipende dalle giornate, dipende dalle settimane, dalle puntate. Sono aperti i bandi per cercare nuovi DJ per sostituirci. Sì, perché stiamo vivendo una profonda crisi mistico-musicale e quindi, come tanti gruppi, come vi abbiamo detto nelle puntate precedenti, che è diventato Hare Krishna, chi prete, chi forse pure ha cambiato sesso addirittura. Noi dobbiamo ancora capire cosa cambieremo, cosa sappiamo. Ne sarà del nostro futuro. Benissimo, allora abbiamo, e con questa piccola intro, sempre molto simpatica, molto affettuosa, e vi diamo il benvenuto all'ottava puntata, vero? All'ottava puntata, sì. All'ottava puntata del Rovescio della Medaglia, che vi ricordiamo, per chi ci sta ascoltando la prima volta ora, è un programma che si occupa dell'approfondimento di quella che è stata la scena italiana prog degli anni 70, e lo stiamo facendo, diciamo, secondo una logica filoautistica, quindi con l'alfabeto prog. Stiamo riscrivendo l'alfabeto prog, lo troverete presto nelle migliori librerie. Questo è il manuale. Dagli Alfa Taurus agli Zundapp. Fantastico. Passando per... Tipo oggi affronteremo le lettere N, O e P. Eccoci, pure la P oggi? Sì. Sì, c'è anche qualcosa della P, una parte della P e la conclusione della N della settimana scorsa. Scusate, però questo è il bello della diretta, la playlist di questa puntata l'ha fatta Prog 11:15, sì, che allora è giusto che chieda delucidazioni al riguardo. Allora, con cosa vogliamo aprire oggi? Allora, io farei un'apertura, diciamo, un po' particolare, un po' atipica, perché faremo ascoltare un brano dei Napoli Centrale, che non sono proprio formalmente un gruppo prog, ma hanno più sonorità derivate dal jazz e dal free jazz. Dei Napoli Centrale... Però, come giustamente mi dicevi prima, Prog 12, la prima formazione, no, dei Napoli Centrale. Sì, perché i Napoli Centrale derivano da un'altra formazione che si chiamavano gli Showmen. Gli Showmen erano più prog puristi. E ne facevano parte Franco Del Prete e James Senese, che poi dopo hanno formato i Napoli Centrale. James Senese non appartiene a nessuna famiglia italo-americana di quelle strane. Non lo so. Lasciamo questo velo di mistero. Sì. James Senese era in parte americano e in parte nopeo, si può dire questa cosa. Questa è fantastica, però ogni volta che me la dici mi fa ridere sempre. È un comico nato, Prog 12:30. La particolarità di questo gruppo è che comunque cantano più o meno in dialetto napoletano e affrontano nei loro testi in maniera esplicita dei problemi sociali. Comunque sono sempre testi di denuncia sociale. E vi faremo ascoltare dall'album omonimo il brano Campagna, che faceva parte del primo singolo di Napoli Centrale. Sì, lo mandiamo subito? Io lo manderei subito e poi dopo inizia. Questa era una cosa particolare che avevo piacere mettere in scaletta, anche se appunto non appartiene proprio al prog. Sì, perché ricordiamolo che te per qualche anno sei stato anche un jazzista, hai suonato anche con diversi gruppi jazz. Sì, quello sì. Sì, anche io ho avuto il piacere di suonare anche con James Senese. Ecco perché. A Napoli nel 75, eravamo io e James Senese. Fantastico. Io che facevo nel 75 a Napoli? Te che facevi? Non lo so. Suonavi le congas in qualche altro gruppo? Le famose congas. Allora, ma vi mandiamo compagnia, no, campagna, no? In In compagnia compagnia di siamo noi, campagna, siamo io in compagnia di campagna, in compagnia di Napoli Centrale. Thank you. Bene, bene. Abbiamo, allora, loro erano in Napoli centrale con Campagna e come avete potuto ascoltare un po' un pezzo un po' fuori dalla linea prog che rigorosamente seguiamo. È un pezzo giazzeggiante con anche alcuni spunti un po' funky qua e là. Sì, è molto molto vivace. Sì, abbastanza variegato, interessante. E quindi erano in Napoli centrale. Ora il prossimo gruppo che andiamo a presentare sono per me personalmente i mitici Osan, che era sempre napoletani, è un gruppo che si è formato nel 71 e nulla, la loro carriera è durata 4 anni più o meno. E secondo la critica diciamo che non sono mai riusciti a creare quello che in qualche modo può essere definito l'album perfetto, o sì, l'album perfetto semplicemente, anche se poi io personalmente non condivido, perché gli Osanna mi piacciono particolarmente. E sì, poi è difficile parlare di album perfetto, senza, comunque avevano delle registrazioni all'avanguardia, delle sonorità particolari, comunque speciali, quindi nel senso, sì, in un album ci saranno due o tre brani che magari hanno meno tiro, hanno meno spinta, però sono sempre degli album validissimi. Sì, è vero, infatti comunque io ce l'ho detto per onor di cronaca, certo, nel certo. Senso, però io mi dissocio da quello che ho appena detto, mi autodissocio con me stesso, cioè i pezzi che ha scelto Prog 13 e mezzo per gli Osanna partono dal primo loro album, che è L'Uomo, che ti racconto un piccolo aneddoto al riguardo. Ero qui proprio in attesa. Che praticamente una volta andai a un banchino di dischi, e sai a me piacciono i dischi, e trovai gli Osanna e quest'album, che è un album a tre facce, quindi doble faccia, triple face, yeah, my English is perfect. E quindi, e allora ho trovato quest'album, che insomma gli album degli Osanna, come tanti altri gruppi, i vinili, insomma, è parecchio, hanno dei prezzi un po' esagerati, sono un po' costosi, e la particolarità di questo album, che era appunto, stiamo parlando dell'Uomo, il primo album, è che praticamente c'ha un elastichino, un gancino, cioè te chiudi quest'album, lo chiudi con un gancino. C'ha tipo l'elastichino che si aggrappa a questo gancino, e quella è la sua chiusura, che nel mondo dei collezionisti pare sia abbastanza ricercato, perché si vede che saranno uscite altre ristampe senza però l'elastichino, quindi... E quello gli dà comunque una caratteristica e un valore importante. 5-6 mila euro in più di album per un elastichino, ce lo metto io a casa, dammelo senza... Ma te ce l'hai... Te ce l'hai questo album senza elastichino? No, l'hai perché, comprato? No, poi. Perché cioè, lo tirava via tipo a 20 euro, però c'aveva sul disco, sul vinile proprio, c'aveva uno sgarro, tipo un graffione, che però il tipo diceva no, si sente uguale. Meglio si sente. Sicché non l'ho preso, però era magari solo per la copertina, forse 20 euro valevano, però non l'ho preso, ecco, morale della favola, non l'ho preso, però mi sembrava un aneddoto interessante. Che diciamo ai nostri ascoltatori più giovani che i dischi in vinile devono essere rigati, però in maniera circolare, non trasversale, se no succede qualcosa di strano. Ma se vedete una serie di linee circolari va tutto bene, potete acquistarlo quel disco, quindi se vedete in altre forme, tipo... oleogrammi o incisioni rupestri, graffiti paleolitici, non li prendete, no, non li acquistate, anzi un'infamata a chi ve lo sta vendendo, ci sta tutto. Ok, allora del primo album degli Osanna ci buttiamo su, come dicevamo prima, su una suite autoprodotta, vero? Proprio 12. Sì, ma andiamo in ordine dal primo brano fino al quarto. Sì, perché praticamente noi forse abbiamo capito che il nostro futuro sono le suite autoprodotte, quindi Sì. piazzare suite autoprodotte, sicché Creiamo suite. fatevi avanti ipotetici compratori, perché le nostre suite sono autoprodotte, fantastiche, non le sentirete da nessuna parte. Partiamo allora con questa fantastica suite da noi mixata degli Osanna dal primo album, L'Uomo. La terra, il cielo, il mare, creare, creare, ovunque creare, il sole, la luce, il freddo, il calore, l'amore, l'amore, ovunque l'amore, dai tempi di un tempo da poco vissuto, l'inizio di un mondo non certo voluto, agli oggi in cui sogni non sono sinceri, nei giorni più tristi, nei giorni più veri. Nel corso di questi, l'orgoglio vivente ha spinto le forze del costo di niente. La gente, le razze, il danaro, la terra, l'odio, l'invidia, la forza, la guerra. sfruttati han reso nei buoni dei cuori ghiacciati. Si vive e si muore nel fango e l'orrore, si cercano invano momenti d'amore. E questi erano gli Osanna con l'album L'Uomo. Prego. No, aspettavo finisse il pezzo, ma si può andare avanti così. Sì, teniamolo sottofondo carino, questo arpeggio di chitarra Sì, ci sì. piace, questo riff. Comunque, in questo periodo, dopo l'uscita di questo album, ebbero subito un grande successo gli Osanna. E in quegli anni ebbero una grande produzione di concerti e suonavano molto dal vivo in tour per l'Italia. E ebbero anche il piacere di aprire il concerto dei Genesis in Italia con Peter Gabriel, quando ancora c'era Peter Gabriel. Sì. E secondo alcuni, Peter Gabriel abbia preso qualcosa almeno dalle scenografie, dalle scenografie, insomma, dai costumi degli Osanna, che erano molto particolari. Loro vestivano con delle lunghe tuniche colorate, avevano i visi dipinti e curavano molto appunto le scenografie dei loro concerti. Vorresti dire che Peter Gabriel ha fottuto della roba agli Osanna? Se qualcuno Cioè, dice quindi non che è che è comunque stato anche lui a fottere la l'impianto strumentazione? del rovescio della medaglia. Io Sì. a questo punto aprirei le indagini, cioè no, Sì, riaprirei, rimetterei in discussione tutte sì, no, no, sembra che appunto lui folgorato da questo impianto scenografico, sembra che abbia ripreso qualcosa dagli Osanna. Questo poi ora non vi sto a dire dove e come perché non lo so, però No, sembra le che tue indagini non sono arrivate no, fino a Peter Gabriel. ancora, ancora no. Comunque, cioè, ovviamente qualsiasi artista se vede Certo, qualcosa che perché lo colpisce. tutti diamo e tutti riceviamo, fratello. Perfetto. Comunque, passiamo al secondo album, anche questo molto famoso, che si chiama Preludio, tema, variazioni, canzona, che è so conosciuto soprattutto con il nome di Milano Calibro 9, che prende il nome dall'omonimo film di Fernando Di Leo, del 72, mi sembra, Non sapevo. del 72, sia il film che l'album. E la colonna sonora comprende anche degli arrangiamenti orchestrali, indovinate di chi? Di Luis Enriquez, no, Enriquez Bacalov. Bacalov, sì. E comunque anche questo comunque è strutturato, nonostante sia una colonna sonora per un film noir. È strutturato anche questo come un pezzo di musica classica, come un concept album o un'opera sinfonica, che comprendeva quindi un preludio, un tema e delle variazioni sul tema. E appunto da questo album vi faremo ascoltare prima il preludio e poi il tema. Milano Calibro 9, gli Osanna. Thank you. Bene, bene, bene. Ed erano gli Osanna, come abbiamo detto, dal loro secondo album, vero? Proprio 17. Loro secondo album, Milano Calibro 9, o il titolo originale era Preludio, Tema, Variazioni, Canzona. Ok, ora vuoi andare avanti con la tua fantastica scaletta? Andiamo avanti con la scaletta, Ah, abbiamo. scusami, Prog, mi concedi, ricordiamo anche che gli Osanna qualche giorno fa, credo 7 Il 7 dicembre, erano dicembre, al Teatro Puccini, sì, sono ancora attivi, ancora in ancora attivi, pompa. ricordiamolo, con gli NCCP, vero? Nuova compagnia di canto popolare, sì, Sì, oppure. ma erano, non suonavano insieme, erano due concerti. No, però la stessa serata, Sì, sì, no. un po'. Ok, gli NCCP, sì, l'acronimo L'acronico autocompa. di noleggio con conducente per proletari. Sappiatelo, potremmo aprire una nuova, un nuovo tipo autonoleggio, Nostro vero lavoro, quello facciamo di il noleggio con autonoleggio. conducente per proletari, sappiatelo. Andiamo avanti con Andiamo cosa. avanti con la scaletta, abbiamo l'ultimo album che presentiamo stasera degli Osanna, anche se poi ne hanno fatti altri, e secondo alcuni è l'album migliore, il più completo degli Osanna, che si chiama Palepoli. Dura davvero così? Dura Come? davvero tutti questi secondi? Sì, un sacco di secondi dura questo. E Accidenti. anche questo ovviamente è un concept album. E il disco contiene solo tre lunghi brani. E Di a noi cui uno purtroppo l'ascolterete voi. ascolterete stasera, che si chiama Oro Caldo. Che un po' questo pezzo unisce un po' quello che è il tipico stile dei canti tradizionali della loro città, che ricordiamo. Napoli. Un sacco di gruppi napoletani in quegli anni. È vero, sì, Napoli, Roma, forse il sud, sì, a livello prog era rappresentato da Napoli e Roma, perché sì, perché abbiamo Sì. presentato un gruppo calabrese, però Uno sì, siciliano. Sì, comunque Napoli Etna. era molto Sì, Napoli e Roma sfornavano prog a più non così, posso. come il pane. Sì, davvero. Comunque, quindi da questo terzo album, l'ultimo che presentiamo noi, faremo ascoltare Oro Caldo. Thank you. saluto speciale a todos los malparidos que nos están escuchando. Ghiacci volti stanchi vanno senza età, come viole che nessuno suonerà. È una mano graffia il viso tuo, è un mercato umano di pietà. L'esile figura, l'espressione pia, è bagnata da una pioggia di fragilità. Apre le sue mani, la sua fede dà una luce come argento vecchio brillerà. Vita nuda, fredda esce da lei. Sfoglio il mio giornale, ma non vivo più. La mia vita consumata mentre il tempo va. Thank you. Bene, bene, bene. Questo era, allora era Oro Caldo degli Osanna, dall'album, come abbiamo detto, Palepoli, che era il terzo album degli Osanna. E vi abbiamo risparmiato 7 minuti. Vi abbiamo dato solo un'anticipazione che finiremo di mandare nella prossima puntata per gli ascoltatori più fedeli. E nulla, allora io direi quasi che siamo al momento un po' di presentare. Sì, siamo al momento dell'agenda della settimana. Yeah. Non abbiamo ancora un jingle per questo. Lo creeremo. Ho già contattato i jingolisti più famosi. Perfetto. Della città per far sì che diano il loro contributo, chiaramente gratuito. Perché proprio a proposito di contributo artistico, vi vogliamo ricordare che c'è il Wombat Logo Contest, ossia praticamente c'è una gara a chi fa il logo più bello, più artistico, più sensazionale, più... O semplicemente simpatico. O semplicemente fate un cazzo di logo. E nulla, e praticamente diciamo tutte le modalità del contest le potete trovare dove? Sul nostro sito wombat.noblogs.org. Vi ricordiamo che c'è anche twitter.com/radiowombatfi, poi c'è anche facebook.com/radio-wombat-firenze. Per chi ci vuole scrivere, dirci, infamarci, dirci qualsiasi cosa, c'è la posta. Posta Wombat @insiberia.net. Quindi vi ricordiamo a tutti che c'è questo logo contest, sicché fatevi avanti, non siate timidi e mandateci tutti il vostro fantastico logo, che secondo voi rappresenta quello che è Radio Wombat. Vi ricordiamo che il bando scade il 22 febbraio del 2017, quindi avete un po' di tempo non trovate patetiche scuse, perché non avete tempo a sufficienza per poter creare la vostra fantastica opera. E poi vi voglio ricordare che venerdì 23 dicembre Radio Wombat organizza un antinatale. Dalle 19.30 cena e presentazione della Scarceranda 2017, a cura di Radio Onda Rossa di Roma. I nostri colleghi romani, quasi nostri genitori, diciamo. Dalle 22, una cosa molto interessante, ci sarà il concerto dei NEM, Nuove Esperienze Retico-Musicali. Un'orchestra improvvisativa mutante, dal 1972. Quindi questa sarà un'orchestra formata, non so da quanti individui, in genere sono dai 30 ai 50 musicisti, che faranno una serata di improvvisazione per festeggiare questo antinatale presentato da Radio Wombat. Tutto questo al Next Emerson in via di Bellagio. E poi sabato 24 potrete ascoltare in diretta il primo pianto di Gesù Bambino, quindi insomma cercate sempre, mi raccomando, sempre su Radio Wombat, sempre su Radio Wombat in diretta per voi, sentirete il primo vagito a mezzanotte in punto e sentirete urlare quella mamma che lo sta. Di che giorno viene il 24? Sabato. Sì, proprio un Saturday night a tutti gli effetti. Sì, sì, sì. E poi da là si festeggia la nascita e vai. Ricordiamo che dalle 21.30 potete ascoltare DJ Dale Dama. Ah, è vero. Con Tonight Alive. Sabato 24? Sì. Tutti sì, sabato. Ah, quindi proprio lo fa nascere in diretta? Sì, lo fa nascere lui. Quindi come si chiamano quelle che fanno partorire le donne? Le ostetriche. Oltre alle ostetriche ci sono anche quelle che fanno partorire in casa, che hanno un termine particolare. No, non me lo ricordo. Cioè, diciamo lui farà partorire in casa Gesù Bambino tra un pezzo e un altro. staying alive. E quindi poi parte la festa e vabbè, la febbre del sabato sera. Bene, speriamo che qualcuno si prenda cura di lui, se no tutti a festeggiare gli dà le prime attenzioni a sto bambino. Vabbè. Poi diamo qualche altro appuntamento per chiudere la nostra fantastica rubrica. Diciamo anche, praticamente vi ricordiamo che ci sono i 15 anni del CPA FISUD e ci sarà del CPA, CPA FISUD, vabbè, uguale, e del CPA, e ci saranno due gruppi, The Screaming Schools, Rockabilly, Rockabilly dei Castelli Romani, e Marco Di Maggio Trio, che l'abbiamo visto, abbiamo visto anche noi qualche volta qualche concerto, sì, loro. Sì, sì. Grande, ha diverse formazioni, questo è in trio, un grande musicista fiorentino. Merita. Bene, per la nostra piccola rubrica abbiamo un po' spiegato quello che c'è questa settimana. E il prossimo gruppo lo vuoi presentare te, Prog 13? Ma sì, dai, sono pronto. Allora, il prossimo gruppo si chiamano i Panna Fredda. Panna Fredda sono un gruppo di Roma che si era formato negli anni 60, ma con altri nomi. Con il nome Panna Fredda sono riusciti a pubblicare un solo album che si chiama appunto 1. Però voglio, ecco. Però questo, no, ci dica. Scusami, Prog 12. Praticamente c'è un caso di, come si dice, di omonimia, può essere, perché praticamente negli Uno, cioè, c'era un gruppo che poi quando arriverà quando arriveremo alla lettera U, li presenteremo, che c'era un gruppo che si chiamano gli Uno e il loro primo album si chiamava Uno. Album omonimo, come abbiamo detto migliaia di volte, Uno, quindi. Sì, un caso di omonimia poi nel giro di un paio di anni, perché ma sì, ora non saprei, se vuoi ti risalgo al volo. Sì, no, però comunque sì, nel 70, i Panna Fredda, e nel 71 74 e gli Uno, l'album è del 74, sì. Quindi, comunque sì, nel giro di pochi, in 4 anni, volendo, uno dimentica tante cose. Sì, in effetti anche. Poi comunque la produzione era abbastanza intensa in quegli anni, in quei 4-5 anni. Poteva capitare, via, poteva sì. Capire, li perdoniamo, via. Comunque, questo unico album che si chiama Uno, un bell'album, ben riuscito, ma la casa discografica, la Vedette, non fece alcuna promozione e il gruppo si sciolse. Poi l'album è uscito dopo, quindi è uscito nel 1971, ma il gruppo praticamente si era già sciolto. Comunque, questo album molto, molto interessante, che si basa, la musica si basa molto su questo incrocio tra chitarra e tastiere, e anche la voce ha delle caratteristiche molto, molto interessanti, e molto influenzato anche dal prog inglese. Comunque avevano ascoltato tutto quello che era la musica progressive inglese. Sì. E noi vi faremo ascoltare Un re senza reame. E la paura, è vero? Ah, sì, e la paura. La paura è un re senza reame. Tratti poi, appunto, dall'unico album. E poi concedimi anche di sottolineare Prog 13, che praticamente le radio dell'epoca trasmettevano già, ora magari i pezzi nello specifico, non mi ricordo, in quegli anni non ero sempre presente, però le radio già trasmettevano l'album prima che uscisse. Sì, c'era questa cosa, perché comunque l'album era registrato ma non usciva per non si sa per quali motivi. E non si sa come mai le radio già ce l'avevano. Avevano fatto una piccola promozione loro personalmente. Sì, sotto banco. Sì. Va bene, allora li mixeremo, cosa ne pensi? Allora, sì, questi fanno parte dell'unico album, si possono mixare. Quindi, i Panna Fredda, Un re senza reame e La paura, tratti dall'album 1. vesti bianche di una luna senza proprietà, i fiori che germogliano la vita intorno a noi, inebriano e profumano i giochi di un bambino, ma tutto questo un giorno avrà una corte ed un suo re. Le notti che incatenano i pensieri dentro noi trasformeranno i sogni in brevi realtà. Sui soffici mattini grigi la luna piangerà, piegandosi al volere del sole e del suo re. Campane senza suono che chiedono pietà, odore di candele, di fiori morti ormai, visioni di terrore che la notte donerà a un re senza reame, a un re che piangerà. Bene, bene, bene. Allora abbiamo anche avuto modo di ascoltare e di conoscere i Panna Fredda, ricordando sempre il caso di omonimia LPistico, da uno con gli uno, con l'album uno, quindi uno più uno più uno più, insomma. Più fa tre, però uno per uno fa sempre uno. Non ci avevo mai pensato. Allora, presentiamo il prossimo gruppo che andiamo a presentare. Sono i Paradiso a Basso Prezzo, che il nome è molto simpatico, vero? Proprio 13, via. Sì, sono Paradiso umili. A Basso Prezzo, un po' quasi. Ci rappresenta in qualche modo. Diciamo, potremmo sceglierlo e leggerlo come gruppo, dovevamo chiamarlo Paradiso a Basso Prezzo, questa trasmissione, chiamarla, vero? Invece abbiamo voluto puntare più sul concettuale, sul concept, trasmissione concept invece. Sì, siamo molto, molto concettuali. Ma si può cambiare all'ottava puntata il nome della trasmissione? Ma sì, come le sigle. Prevede? Il contratto lo prevede? Il contratto non lo prevede, ma vediamo i nostri avvocati che riusciranno a fare. Bene, allora, i Paradiso a Basso Prezzo sono praticamente una delle poche realtà valdostane che sono usciti con un unico album, addirittura postumo, che praticamente è uscito in CD con la casa discografica Mellow. E comprende la registrazione di un concerto anche a Saint Vincent nel 73, quindi un po' quasi un'eresia dire che è uscito su CD l'album di questo gruppo che ha fatto un solo album. E indovinate come si chiama? Avete solo 5 secondi per indovinare il titolo. Lo potete scrivere su postwombat@insiberia.net. Chi vince, chi indovina per primo, riceverà la prossima serata benefit per la radio un abbraccio dai DJ di Radio Wombat. Così avete vinto un abbraccio caloroso, affettivo, che questo è quello che vincete. Dicevamo che praticamente i brani che sono contenuti in questo CD che è uscito solo nel 92, e praticamente sono parte di un progetto, di un LP che si sarebbe si si sarebbe dovuto chiamare. Sì. Si sarebbe dovuto chiamare, che io ne parlo bene l'italiano, si sarebbe dovuto chiamare Picadon Hiroshima, però non riuscimmo a registrare e poi il gruppo si sciolse a metà del 74 e quindi, come abbiamo detto, solo nel 92 è uscito su CD questo album di questa rarità valdostana della prog, e noi vi mandiamo da questo album, vi mandiamo Preludio e Catastrofe. Loro sono i Paradiso a basso prezzo. Thank you. Questi erano i Paradiso a basso prezzo, gruppo, l'unico gruppo valdostano che presenteremo nella nostra trasmissione. Comunque andiamo avanti con un altro gruppo, invece un altro gruppo molto, molto più famoso, molto più conosciuto soprattutto negli anni 70, che erano i Perigeo. Un gruppo romano che si è formato nel 1971, molto, con delle sonorità molto più vicine al jazz che al rock, ma comunque un bel connubio di sonorità. E sono stati un gruppo molto, molto prolifico, che hanno fatto uscire 6-7 album, e non tutti ben riusciti, ma noi ve ne faremo ascoltare delle tracce di 3 album. Il primo si chiama Azimuth e vi faremo sentire appunto il pezzo omonimo, che è il primo brano dell'album. E ebbero anche i Perigeo anche un grande successo dal vivo, fecero in quel periodo molti, molti concerti. E gli ultimi lavori, diciamo, i più ambiziosi, purtroppo sono anche quelli meno riusciti, tra cui possiamo citare Alice, che era un album a tema basato appunto sul racconto Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Ricordiamo anche che nell'album un po', diciamo, più tra virgolette recente, cioè se parliamo comunque dell'81, come New Perigeo, in questo album hanno preso parte anche componenti dei Flea e dei Goblin. Quindi, ecco, una piccola noticina che ci piace sottolineare. Per continuare sempre questi intrecci tra gruppi, tra musicisti, tra idee, suoni. Comunque, io allora andrei a farvi sentire Azimuth, del primo album, con il pezzo omonimo Azimuth, di Perigeo. Questo era Azimuth, tratto dall'album omonimo dei Perigeo. L'altro pezzo che vi facciamo sentire si chiama Via Beato Angelico, fa parte del terzo album, del terzo lavoro, e l'album si chiama Genealogia, e questo è Via Beato Angelico. Via Beato Angelico finisce l'approfondimento perigeo, il nostro piccolo interessante viaggio alla riscoperta dei perigeo, giusto? Sì, però volendo proprio possiamo far ascoltare l'altro album, un brano dall'altro album, che è La Valle dei Templi. Ah no, è vero, hai ragione, ci stiamo un po' affrettando. In effetti sì. Sì, questo è il quarto album, vi facciamo sentire il brano omonimo, La Valle dei Templi, che è uno dei, secondo la critica, uno dei migliori album prodotti dai Perigia. Andiamo subito? Sì. La Valle dei Templi. Thank you. Ok, bene, quindi era loro erano i Perigeo e il pezzo che abbiamo mandato La Valle dei Templi, e quindi ora salutiamo ufficialmente i Perigeo. È finita la nostra panoramica su Perigeo. Ci siamo vissuti. Bene, bene, bene, lo lascio di sottofondo, presento il prossimo gruppo. Prego, Procuno. Il prossimo gruppo vi andiamo a presentare, un nome buffo anche questo, e si chiamano I Picchio dal Pozzo, che praticamente era una sorta di gruppo aperto e, che fu costituito da Aldo De Scalzi, ossia il fratello minore di Vittorio, e del componente dei New Trolls. Trolls, che abbiamo avuto modo di ascoltare e di approfondire nella precedente puntata. E poi si è avvalso chiaramente, anche essendo gruppo aperto, di una serie di figure musicali note e meno, quindi anche Vittorio De Scalzi dei New Trolls e altri nomi di quello che era lo scenario musicale ligure, quindi immagino e spero genovese, speriamo di non sparare una minchiata. Vabbè, praticamente allora anche i Picchio dal Pozzo, anche loro mantengono la tradizione viva del prog, quindi escono col primo album omonimo del 76, e diciamo non hanno avuto una grandissima carriera discografica o musicale, sì, perché hanno fatto un sacco di live, però discografica un po' meno. Che praticamente sono usciti con Picchio dal Pozzo, che è un album del 76, e poi sono cascati in un silenzio durato 4 anni, sono stati 4 anni in silenzio, gesticolavano, sì. Qualsiasi cosa, andavano a comprare le sigarette al tabacchino, suonavano gli strumenti finti, indicavano, sì, al tabaccaio, Belin, che sigarette vuoi, Belin, 2 ore per capire che sigarette volevano. 4 anni di silenzio, poi hanno ricominciato a parlare e suonare nel 1980 con Abbiamo Tutti i Suoi Problemi, forse per questo. Per questo. Era solidarietà. Dei problemi di comunicazione. Sono rimasti in silenzio per solidarietà a qualcuno, e quindi hanno pensato giustamente di intitolare il secondo e ultimo album Abbiamo Tutti i Suoi Problemi dell'80. Che sinceramente non vi faremo ascoltare nulla, rispettiamo il silenzio. Sì, sì. Sì, poi siamo già un po' fuori dagli anni d'oro del prog. Dagli anni 80 già non ci riconosciamo più, anche perché negli anni 80 gli Prog 12 siamo già passati all'house berlinese, e quindi sì. già pensavamo ad altro, eravamo a Berlino nell'80, e quindi poi tutto il resto è storia, poi che ci conoscete, che sapete, basta. Quindi rompiamo il muro del silenzio e mandiamo dal primo album dei Picchio dal Pozzo, mandiamo il pezzo Seppia. Thank you. E con il Picchio dal Pozzo vi salutiamo anche per stasera, per questa settimana. Vi ricordiamo che saremo in onda sia martedì prossimo, vero? Martedì No, 27. sì, l'accendiamo? Cioè, sì, Sì. lasciami. Martedì 27 dicembre con i postumi del pranzo di Natale o della cena. E saremo anche in onda il 3 gennaio con i postumi dell'ultimo dell'anno. Sì, io non lascerei il campo di battaglia, che ne dici? Va bene, spero di sì, via, speriamo, speriamo. No? E comunque per aggiornamenti, così potete visitare il nostro twitter.com Radio Wombat Firenze, che lo teniamo aggiornato. Facebook Radio Wombat Firenze uguale e poi il sito, il nostro fantastico sito dove ci sono tutti i podcast, le trasmissioni che è wombat.noblogs.org e la mail eventualmente per scriverci che è posta wombat@insiberia.net. A questo punto vi lasciamo con il finale di Seppia, di Picchio del Pozzo, e arrivederci alla settimana prossima. Ciao. Ciao. Anzitutto.